Focus Economia. Le 17:08 minuti, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Sono molti gli argomenti oggi, a partire naturalmente dalla situazione dell'Europa. Si riunisce in questa giornata l'Eurogruppo, ma in realtà l'attenzione è puntata ormai sui piani d'austerità che sono al varo di vari paesi europei, compresa la Germania, ma c'è dibattito anche su questo, perché alcuni economisti, come il ben noto Nouriel Roubini, che abbiamo sentito nel corso del Festival dell'Economia di Trento, sostiene invece che la Germania dovrebbe adottare una politica economica espansiva. Parleremo di questo e ascolteremo la voce di Roubini. Parleremo naturalmente di mercati in una giornata che per l'ennesima volta è stata piuttosto strana, perché si è aperto in calo, poi è andati sopra la parità e poi di nuovo in calo. In questo momento il FTSE MIB cede lo 0,8% e il FTSE All Share lo 0,82%. Per darvi un'idea della giornata, Azimut è arrivato a perdere 5 punti percentuali, in questo momento guadagna 2 punti percentuali e l'euro quota a 1,19,36 contro dollaro. Parleremo anche dei settori industriali e in particolare del legno e dell'arredo. Federlegno ha riunito la sua assemblea, ci sono elementi importanti che derivano proprio anche dal calo dell'euro di cui discutere, e poi parleremo del settore aereo e aerospaziale. Si riunisce oggi l'assemblea della IATA a Berlino, ci collegheremo con Berlino e faremo il punto anche sull'accordo che c'è stato tra Finmeccanica e Boeing per gli elicotteri presidenziali americani, dei quali abbiamo parlato molto, come sapete. E ora le notizie in breve di questa giornata. Il petrolio fa registrare un lieve calo nella giornata di oggi, sotto i 70 dollari al barile. Nel frattempo si apprende che il gruppo petrolifero britannico BP ha già versato oltre 1 miliardo di euro per tentare di far fronte alla marea nera nel Golfo del Messico, oltre ai soldi promessi per la costruzione di isole artificiali di protezione davanti alle coste della Louisiana. Nonostante tutto ciò, continua a crescere il prezzo della benzina. Secondo Staffetta Quotidiana, solo Agip resta al di sotto di 1,4 euro, mentre Kuwait è già oltre 1,41 per la verde. Sul gasolio, due marchi, Kuwait e Shell, a 1,27 euro. Si diceva del trasporto aereo. Secondo la IATA, l'associazione che raccoglie le compagnie aeree internazionali, il settore tornerà in utile nel 2010, dati in parte già anticipati la settimana scorsa, per 2 miliardi e mezzo di dollari l'utile nel 2010, un miglioramento importante visto che la perdita era stata all'incirca la stessa, se non di più, nell'anno precedente, ossia nel 2009. Nel 2010 però l'Europa sarà l'unica area in rosso, con perdita appunto per 2,8 miliardi di dollari. E proprio da Berlino, dall'assemblea della IATA, è arrivata la notizia di Finmeccanica e Boeing che si alleano per partecipare alla gara per l'elicottero per il presidente degli Stati Uniti. Ne approfondiremo più tardi, come si diceva. Sul fronte dei mercati, l'apertura negativa è stata anche dovuta all'andamento della borsa di Tokyo. Il Nikkei ha chiuso con un meno 3,84%. Euro che recupera lievemente, ve lo dicevamo, anche se rimane sotto quota 1,20 contro il dollaro. Aveva toccato i minimi da 4 anni contro il biglietto verde a 1,1877. Sul fronte dell'Europa, in particolare della situazione dell'Ungheria, che tante preoccupazioni aveva suscitato nei mercati nella giornata di venerdì, dice il commissario agli affari economici e monetari europeo Olli Rehn, non si può comparare la situazione dell'Ungheria a quella della Grecia, intendendo con questo che la situazione dell'Ungheria è migliore, e poi l'Ungheria stessa sta valutando il suo piano di austerity, o meglio il suo piano economico, allo studio tre aliquote sui redditi del 16, 19 e del 20%, e ancora l'Ungheria farà tutto il necessario per tenere sotto controllo il deficit di bilancio e l'intera economia, comprese riforme strutturali. Queste sono parole del segretario di Stato ungherese Mihály Varga. E ancora, il Fondo Monetario non nutre alcun timore riguardo alla possibilità di un default ungherese, così il direttore generale del Fondo Monetario Dominik Strauss-Kahn, e aggiunge: nessun motivo di preoccupazione. E però qualche preoccupazione evidentemente i mercati ce l'hanno, se questo timore di contagio ha spinto il rendimento dei Bund tedeschi al minimo storico a 2,548%, il livello più basso almeno dal 1989, e lo spread continua ad ampliarsi rispetto al BTP decennale italiano, rispetto al Bund tedesco. Poco fa lo ha appena battuto l'agenzia Radio Cori, Il Sole 24 Ore, è arrivato a 175 punti base, mentre in Spagna lo spread è andato per la prima volta sopra i 200 punti, arrivando a 203, il punto più alto dall'entrata dell'euro. Altro segnale non particolarmente incoraggiante, il record per i depositi delle banche presso la BCE, che hanno superato i 350 miliardi di euro. Già giovedì erano arrivati sopra la quota raggiunta subito dopo il crack Lehman. E preoccupazioni arrivano anche dal mondo dell'industria italiana. La presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, all'assemblea di Federchimica a Milano, dice: l'Europa così non regge. In un momento difficilissimo per l'Europa, noi vorremmo far uscire proprio una voce forte di tutte le Confindustrie europee, quindi di tutto il mondo dell'industria europea, che dica: andiamo avanti con l'integrazione europea, rimettiamo la crescita al centro dell'attenzione, non facciamo scelte sbagliate unilaterali come quella di passare alla riduzione del 30% delle emissioni quando tutti gli altri paesi nel mondo non fanno nemmeno il 5 o il 6, cioè la voce dell'industria europea sarà una voce molto forte che dirà: questo è un momento delicatissimo, bene il rigore dei conti pubblici, ma attenzione anche alla crescita, perché senza quella, se noi avremo un mercato interno, una domanda interna europea molto scarsa, non ci sarà spazio per fare nuovi posti di lavoro e per sostenere le nostre imprese. L'Europa c'è una politica monetaria comune, c'è un mercato unico sostanzialmente per i prodotti, nemmeno per i servizi, non c'è nessuna integrazione politica integrata dal punto di vista fiscale, dal punto di vista per esempio delle scelte sulla scuola, sulla ricerca, e quindi in un momento di crisi come questo io credo che l'Europa debba veramente trovare la forza di andare avanti nell'integrazione. Gli stati europei devono rinunciare a un pezzo della loro sovranità e farla diventare veramente europea. O facciamo così o il rischio, come dire, per l'Europa diventa un rischio molto grosso. E poi la presidente di Confindustria ha detto anche che la protesta contro Italia è una protesta contro il paese. Ha detto che Confindustria sostiene la proposta del ministro Tremonti di rivedere l'articolo 41 della Costituzione per dare più libertà d'impresa, e ha parlato anche di Basilea 3, dell'accordo. È un problema, alcuni studi hanno stimato un costo per le banche europee tra 250 e 400 miliardi di euro, e quindi c'è un nuovo rischio di credito, secondo Marcegaglia, per le imprese. Altre voci della presidente di Confindustria le ascolteremo più avanti nel corso di Focus Economia. Ci sono anche dati oggi diffusi da R&S, che è Ricerche Studi di Mediobanca. Dice che nel 2009 le banche italiane sono le prime a livello europeo in termini di impieghi verso la clientela. Un dato interessante sui derivati: Europa e Stati Uniti hanno dimezzato i derivati nel 2009. Per quanto riguarda le pensioni, avete già sentito nel giornale radio, l'Europa chiede di alzare l'età per le donne nel pubblico impiego, l'età nella quale vanno in pensione, a 65 anni entro il 2012. Il ministro del welfare Maurizio Sacconi ha fatto sapere che non c'è nessuno spazio di trattativa, e quindi il Consiglio dei Ministri giovedì deciderà in questo senso. Ultimo dato che vi forniamo per il momento è quello di Confcommercio, che segnala una battuta d'arresto per i consumi delle famiglie in aprile. Il loro indicatore segnala una diminuzione dell'1,6%. Il dato destagionalizzato mostra una riduzione dell'1,7% rispetto a marzo, dopo un bimestre di graduale miglioramento. E veniamo al primo tema di questa giornata, ossia le manovre dei vari paesi. Dunque, la cancelliera tedesca Angela Merkel parla di una manovra da 80 miliardi fino al 2014. Vi sono comprese una serie di cose, una tassa verde sui biglietti aerei e poi fino al un progetto per 552 milioni di euro per il castello di Berlino che è stato sospeso. Una tassa sulla produzione dell'energia nucleare, poi tagli per i dipendenti pubblici, insomma, come per il Sud Europa. E poi le tasse non aumenteranno, dice il vice cancelliere e ministro degli esteri Guido Westerwelle. Allora, iniziamo salutando innanzitutto il professor Franco Bruni, che ci ha raggiunto al telefono, docente di Economia Monetaria Internazionale all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Buonasera, professor Bruni. Buonasera. Autore, tra l'altro, di un libro, L'acqua e la spugna, che è stato riedito di recente, che si occupa naturalmente di quello che è il suo tema principe, ossia la politica monetaria, e perché abbiamo chiesto al professor Bruni di venire da noi. Perché ieri abbiamo raccolto al Festival dell'Economia di Trento un'opinione interessante, quella di Nouriel Roubini, economista e docente alla New York University, che ben conoscete perché è l'uomo noto per aver previsto la crisi, per essere andato tra lo scetticismo del Fondo Monetario Internazionale nel 2006 a dire attenzione, qua c'è una bolla speculativa che sta per esplodere, che si è visto trattare con un certo grado di scetticismo e poi gli è stata data ragione. C'è l'idea di una ricetta per l'Europa e non solo per l'Europa di Nouriel Roubini. Ebbene, ascoltiamola. Well, you know, you may need a deeper coordination of economic policies, but that cannot be just unquote Germany imposing on the rest of the Eurozone. In Europa c'è bisogno di un maggiore coordinamento nelle politiche, ma non può essere la Germania che impone agli altri paesi l'austerità fiscale. L'austerità è necessaria in paesi dove ci sono difficoltà di deficit e debito, come Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, ma dall'altra parte ci vogliono politiche che stimolino la crescita per evitare recessione e deflazione. La Germania, dove il rapporto fra deficit e PIL l'anno scorso è stato solo del 3%, ha dei margini per aumentare il budget per sostenere la domanda nell'Eurozona. Con l'euro che cade, l'industria tedesca, che era già competitiva, è ora ancora più competitiva e dato che l'euro scenderà ancora, la Germania diverrà ipercompetitiva. Nel corso del prossimo anno, l'euro andrà verso la parità nei confronti del dollaro, se non ancora più giù. I fondamentali delle due economie giustificano la debolezza dell'euro. Se questo indebolimento avverrà in maniera graduale, non è una cosa di cui preoccuparsi. Anzi, sarà un beneficio per l'economia della zona euro. Così la Germania può permettersi un leggero aumento dei salari per stimolare non solo l'export ma anche la domanda interna di beni tedeschi e di beni degli altri paesi dell'Eurozona. Berlino deve lanciare un piano di stimolo fiscale, incrementare i salari netti e la Banca Centrale Europea non deve preoccuparsi dell'inflazione, perché il rischio è semmai di una deflazione, e allentare la politica monetaria, sia con i metodi convenzionali, ossia intervenendo sui tassi, sia non convenzionali, per stimolare la crescita e accompagnare il calo dell'euro. Ogni attore nell'area euro deve svolgere il suo ruolo, il che implica un maggiore coordinamento, ma non il fatto che tutti diventino come la Germania. Ogni paese, con le sue specificità, con i suoi problemi specifici, con le sue politiche, deve fare la sua parte. Questo poi deve avvenire a livello globale. I paesi che spendono di più, sia a livello pubblico, sia a livello privato, come Stati Uniti, Gran Bretagna o alcune nazioni d'Europa, devono spendere di meno. Quelli che finora hanno risparmiato, come la Germania, il Giappone, Cina, debbono spendere di più. Tutto va coordinato a livello europeo e di G20. The global level. Beh, un'idea di coordinamento globale forse un pochino utopica quella del professor Rubini. Allora vogliamo coinvolgere il professor Bruni su entrambi gli argomenti, a partire dalla questione dell'euro. Rubini dice in sostanza che questo calo dell'euro va accompagnato dalla BCE, insomma fa intuire, poi più avanti nel corso delle conferenze al Festival dell'Economia l'ha detto anche in maniera un pochino più netta, insomma ci vuole una svalutazione competitiva. Lei come la vede, professore? Beh, trovo che l'euro in questo momento è debole, ma non deve essere una preoccupazione grave, non è neanche poi debole a un punto drammatico. Non credo che la banca centrale debba però avere un obiettivo di cambio, e non è quella la via attraverso la, non è la cosa di cui deve occuparsi, non è del cambio, non è del cambio deve occuparsi per altre ragioni. In questo è un periodo, diciamo, in cui è difficile tenere in ordine i mercati valutari, che per esempio in questo momento in questi ultimi tempi ci sono state domande di dollari molto forti da parte di imprese finanziarie, soprattutto europee, che hanno bisogno di coprire posizioni negli Stati Uniti, quindi la Banca Centrale Europea ha dovuto essere attivissima in collaborazione con la Fed a procurare questi dollari, eccetera. Queste sono le cose di cui si occupa la Banca Centrale, che non ha fra i suoi obiettivi quello del tasso di cambio, non deve averlo, non c'è bisogno che si allarmi se l'euro scende, ma non deve neanche spingerlo giù. Tra l'altro non credo che la soluzione per l'Europa sia una svalutazione. Certo, se il cambio si indebolisce un po', fa parte, diciamo, di questo momento congiunturale e può accompagnare l'aggiustamento, ma l'Europa deve puntare su ben altro, su riforme strutturali, su maggiore competitività, per la quale forse occorre in prospettiva pensare di riuscire a competere con un cambio forte, non con un cambio debole. Allora, questo è il primo elemento. Prima di fare un'altra domanda su quelli che poi sono i temi dei piani di austerità varati dai governi e quindi anche quello tedesco, vediamo di capire un attimo che cosa sta facendo la Gran Bretagna. Il premier britannico David Cameron si è rivolto oggi ai cittadini annunciando drastici tagli alla spesa pubblica di 6,2 miliardi entro il prossimo anno finanziario. I tagli che cambieranno la nostra vita, dice Cameron, ascoltiamolo. Le origini della situazione attuale si trovano nei grandi errori compiuti lo scorso decennio. Oggi tutti paghiamo un alto prezzo. Il settore pubblico è andato fuori controllo e va riportato nella giusta direzione. Voglio sottolineare che il governo precedente ha lasciato come eredità una montagna di denaro immessa nel settore pubblico, che però non è diventato per nulla migliore o più efficiente. Quindi i tagli che si profilano ora sono inevitabili, ma erano inevitabili se solo si fosse speso in modo più assennato. Non si sarebbe dovuto dare continuamente denaro al settore pubblico in un momento in cui tutti nel paese stringevano la cinghia. Il settore privato è tornato ai livelli di 6 anni fa. Nei prossimi 5 anni la somma degli interessi sul debito diventerà più alta di quelle di scuola, ambiente e trasporti messi insieme. Questo è lo scenario di fronte a noi. E voglio essere chiaro, ci saranno gravi conseguenze se non agiamo ora per tagliare la spesa pubblica e ridurre il deficit. Data l'eredità così negativa con cui ci confrontiamo, è inevitabile che le misure siano durissime. Le vite delle persone, e questo è un punto fondamentale, sarebbero peggiori se non agissimo subito. Non siamo soli, molti paesi hanno vissuto oltre i loro mezzi e anche loro hanno approntato piani durissimi. Prometto che qui in Gran Bretagna nessuno sarà lasciato solo. Siamo tutti insieme in questa situazione e ne usciremo tutti insieme. We are all in this together and we are going to get through this together. Chi meglio avrebbe detto a David Cameron che insomma uno dei primi provvedimenti da varare sarebbe stata una manovra sostanzialmente lacrime e sangue. Professor Bruni, non è Rubini il solo a dire che forse in questa tensione verso i tagli alla spesa pubblica ci sia un po' troppa attenzione all'austerità e un po' poca alla crescita. Insomma, lui ci vede una soluzione di coordinamento europeo e addirittura mondiale che, francamente, a quanto vediamo e a quanto abbiamo visto negli ultimi mesi, ci sembra alquanto difficile. E però, insomma, forse qualcosina da correggere c'è in tutto questo. Ma non ho ben capito la ricetta di Rubini, perché da quello che... Lui dice in sostanza che la Germania deve fare in modo di stimolare l'economia, perché è di fatto l'unico, uno dei pochi paesi europei, o almeno l'unico paese europeo di quelle dimensioni, ad avere i conti pubblici in un discreto ordine. Quindi deve stimolare l'economia, alzare lievemente i salari, insomma stimolare il suo mercato interno e diventare anche in parte il mercato interno d'Europa in una fase così complicata. Mi sembra che vada più in là di questo, perché non parla solo della Germania, lui vuole la politica monetaria espansiva, vuole lo stimolo fiscale, vuole esattamente le cose che ci hanno messo nei guai fino adesso. Certo, la Germania ha modo di essere più, diciamo, cauta, più graduale, più di altri paesi, ma un po' tutti dobbiamo pensare di più al futuro e all'equilibrio della finanza pubblica, e la politica monetaria non può continuare a sanzionare l'indisciplina finanziaria di tutti, dalle banche alle imprese, alle famiglie, ai governi. Anche la politica monetaria deve cominciare piano piano, in modo preannunciato, molto graduale, ma a far capire che la liquidità verrà creata fino a un certo punto e che i tassi di interesse a un certo momento devono risalire. La Germania in particolare ha un problema di mercato interno, di spingere la produzione interna, ha un grosso problema di riforme strutturali. La Germania è molto efficiente nel settore delle esportazioni e lo diventerebbe ancora di più se poi appunto si puntasse solo su quello per lo sviluppo. La Germania invece è un paese molto meno efficiente nella parte di servizi interni, è un paese pieno di vincoli, pieno di corporazioni, e quindi è dal lato dell'offerta che la Germania deve stimolare la sua economia e l'economia europea, non dal lato della domanda. Professor Bruni, c'è un dato che abbiamo fornito poco fa, che è di oggi e che aggiorna quello che abbiamo visto giovedì, perché c'è un nuovo record per i depositi delle banche presso la BCE, hanno superato i 350 miliardi di euro. Giovedì avevamo dato la notizia che erano arrivati a oltre i 320 miliardi, che era un livello superiore a quello post-crack di Lehman Brothers. Questo però mi sembra un segnale preoccupante sul fronte della liquidità che circola sul mercato. Certo, c'è un segnale di grande disordine, cioè di grande disorientamento. C'è un finanziamento a tasso fisso bassissimo della banca centrale, illimitato, che dopo non sa cosa fare, ogni tanto si scatena in operazioni di speculazione e i nostri mercati vanno su e giù improvvisamente in modo convulso, ogni tanto ristagna e viene ridepositata presso la banca centrale senza aver fatto particolari danni. Ma qui dobbiamo finirla, anche per stimolare di più le riforme delle banche, le riforme delle regole, le riforme dei governi, le riforme della spesa pubblica, bisogna che la politica monetaria ritorni in una sua funzione di normalità, deve dare liquidità ad un prezzo che ne giustifichi un uso appropriato, assennato e una circolazione normale. Quindi io penserei che già da adesso la Banca Centrale Europea dovrebbe preannunciare un lento, gradualissimo, ma certo cammino al rialzo dei tassi di interesse, che potrebbe cominciare nell'ultima parte di quest'anno e passi in passetto portarci sul 2-3%, cioè tassi di interesse normali nei prossimi semestri, insomma. E come si fa a far sì che il denaro continui a circolare in questa situazione, professore? Bisogna riformare le banche, bisogna evitare di continuare a finanziare la detenzione di portafogli che sono chiaramente poco vendibili che suscitano paure nel mercato. Bisogna far saltare fuori le porcherie e bisogna che chi ce le ha registri le perdite dovute, sia assistito in caso di emergenza, ma che il sistema faccia pulizia, perché se non si fa pulizia si fa come in Giappone, che è stato più di 10 anni e lo è ancora incartato, con tanta liquidità, tanta spesa pubblica, tassi molto bassi, ma l'economia che non cresce, non funziona. Quindi brevissimamente, professor Bruni, la ricetta è la trasparenza, insomma far uscire fuori queste cose in maniera che anche le banche, quando si devono prestare liquidità l'un l'altra, sappiano chi ha cosa e che cosa ha in mano e che rischi corre, insomma. Certo, e molto rapidamente passare alla riforma che in questo momento è al Parlamento europeo, ma che deve essere anticipata al massimo, che crea l'autorità unica di vigilanza europea, presso la quale devono arrivare tutti i conti di tutte le banche e poter essere sommati e dare una fotografia del rischio, in modo che si sa che almeno qualcuno conosce la realtà. Il problema è che qui tutti suonano un po' il panico, perché in realtà non c'è nessuno in Europa che ha tutti i dati necessari per valutare la situazione. E questo è il problema. Grazie al professor Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano ed editorialista della Stampa, per essere stato con noi. Buonasera, professore. Grazie, buonasera. Le 17:38 minuti e 30 secondi, bentornati a Focus Economia da Simone Spezia. Giusto per darvi un'idea di quanto le ricette possano essere differenti, abbiamo sentito poco fa il professor Bruni che ci diceva che secondo lui la BCE dovrebbe iniziare a pensare a rialzare lievemente i tassi. Ebbene, poco fa il Fondo Monetario Internazionale dichiara, alla luce di rischi remoti per la stabilità dei prezzi, i tassi in Eurolandia possono rimanere bassi. È il momento della borsa. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, un'altra giornata strana, partita male, a metà giornata sembrava essersi ripresa e poi la chiusura è più o meno simile all'apertura. Esatto, infatti appunto i mercati questa mattina sono arrivati a toccare dei minimi dai quali hanno recuperato nel pomeriggio, anzi per una manciata di minuti anche la stessa Piazza Affari si è spinta in territorio positivo, incoraggiata dall'apertura, dal tentativo di rimbalzo diciamo messo a punto da Wall Street in apertura e da alcuni dati incoraggianti come quelli tedeschi che hanno messo in evidenza appunto un tentativo quantomeno di ripresa. Gli ordini infatti all'industria tedeschi sono saliti ad aprile del 2,8%. Allora, questo è il quadro generale. Nel frattempo anche Wall Street non sembra sapere che direzione prendere, perché il Dow Jones in questo momento lascia sul terreno appena uno 0,09%, quindi appena sotto la parità, meno 0,62% per il Nasdaq. Allora, settori cemento e costruzioni male oggi. Esatto, proprio il cemento e le costruzioni sono andati male, ovviamente nel momento in cui si mette in dubbio la ripresa, la solidità della ripresa, i settori cosiddetti ciclici sono i primi a pagarne le spese, quindi appunto quelli del cemento sono tra i primi a risentire della pressione delle vendite. Comunque oggi a incoraggiare tra l'altro gli ordini in vendita sui cementieri è stato anche uno studio di una banca d'affari, Goldman Sachs, che ha rivisto le previsioni sia per Buzzi Unicem che per Italcementi, che sono appunto i due titoli del cemento presenti a Piazza Affari. Così Italcementi ha perso sul finale l'1,98%, mentre Buzzi Unicem ha lasciato sul parterre il 2,39%. E a proposito di costruzioni, in pregiro tra l'altro è il titolo peggiore sul FTSE MIB, ha lasciato sul terreno un 2,74%. Eleonora, vedo molto bene Azimut. Si diceva all'inizio della puntata che è stata una seduta veramente strana, perché è arrivata a perdere il 5%, se non sbaglio, chiusura più 2,17% a 6,83 euro. Infatti in questo caso i titoli hanno diciamo letteralmente brillato, nonostante tra l'altro la suggestione abbia pubblicato dati sull'andamento mensile dei fondi comuni che hanno lasciato diciamo un po' perplessi alcuni analisti. D'altra parte i titoli si sono ripresi proprio sul finale, vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Autogrill invece bene anche qua, più 1,37%. Autogrill, così come Luxottica, sono titoli che in questo momento beneficiano diciamo della loro esposizione negli Stati Uniti. Autogrill fattura oltre metà del proprio giro d'affari proprio negli Stati Uniti e quindi beneficia della debolezza dell'euro, che invece preoccupa fondamentalmente l'andamento delle borse. L'euro viene scambiato a 1,19 nei confronti del dollaro. Comunque poi a riaccendere un po' i riflettori su Autogrill, che ha guadagnato sul finale l'1,37%, è stato anche un report molto positivo di Mediobanca. Finmeccanica più 0,40%, poi approfondiremo l'argomento più avanti. C'è stato l'annuncio di un accordo, Eleonora, no? Sì, infatti i titoli hanno iniziato a salire sin dalla prima mattinata e poi appunto sul finale sono stati tra i pochi che hanno registrato questo progresso. Prima c'erano le voci che poi sono state confermate. Finmeccanica ha vinto un ordine da 319 milioni di dollari negli Stati Uniti, un ordine appunto dato dall'aviazione americana per la costruzione di 8 aerei da trasporto. Ci chiedete gli indici, ci sembra di averli dati, forse evidentemente no, comunque li ripetiamo che male non fa, mezzo punto percentuale di calo, per la precisione lo 0,55%, il FTSE MIB, il FTSE All Share in calo dello 0,63%, in realtà peggio hanno fatto molte borse europee, se si pensa che Parigi ha ceduto l'1,21%, Londra l'1,15%, lievemente meglio Francoforte con un calo dello 0,60%. Telecom Italia, Eleonora. Italia invece è stato uno dei peggior titoli, meno 2%, si è avvicinata alla soglia di 0,90, ha chiuso infatti a 0,98 euro. Praticamente a pesare su Telecom è innanzitutto l'andamento debole di tutto il comparto delle telecomunicazioni europee, meno 1% il sottoindice Stoxx 600, ma comunque sono soprattutto le preoccupazioni per la situazione che si profila all'orizzonte per la compagnia di telefonia, soprattutto in Brasile. Ricordiamo infatti che il socio Telefonica, presente nella scatola che controlla più del 20% di Telecom Italia, Telefonica sta cercando di conquistare l'intero capitale di Vivo, una compagnia che adesso detiene insieme a Portugal Telecom e che è presente in Brasile. Se l'operazione andrà in porto, ma lo sapremo solamente a fine luglio quando ci sarà appunto l'assemblea di Portugal Telecom, a quel punto ci sarà probabilmente una situazione sotto i riflettori in Brasile, visto che Telefonica controllerebbe Vivo e avrebbe questa partecipazione indiretta in Telecom Italia, che a sua volta ricordiamo detiene Tim Brasil. Tant'è che la scorsa settimana l'azionista Marco Fossati, che detiene il 5% della società, ha già fatto un po' la voce grossa e ha detto che in quel caso Telefonica dovrebbe uscire dal capitale di Telco, la scatola, ricordiamo, che controlla oltre il 20% di Telecom Italia. Insomma, un po' di problemi all'orizzonte e quindi i titoli hanno perso questo 2%. Allora, brevemente, altri due titoli. Ci sono motivi particolari per i quali Geox è tra le peggiori, un calo del 2,5%, Eleonora? Non ci sono stati motivi o voci particolari, certo in questi momenti dubbi e di incertezze su quello che è l'andamento dell'economia, i titoli ciclici, quindi anche la stessa Geox, sono i primi a risentirne. Mediaset meno 2,43%? Anche in questo caso è stata sin dalle prime battute una dei peggiori titoli, ma non per motivi o studi particolari. Poi andiamo un attimo sui titoli minori, ce ne sono un paio in evidenza, Kinexia, come mai? Sì, Kinexia oggi ha festeggiato una notizia, la società ha avuto un finanziamento da 39 milioni con il quale riuscirà a costruire un impianto fotovoltaico ad Aprilia e quindi la borsa ha premiato le azioni. E poi Zucchi. Sì, Zucchi in questo caso la notizia è un po' anche di colore, perché il portiere della nazionale Buffon, che sta partendo per il Sudafrica, è emerso che ha acquistato l'11,5% del capitale della società. Per ora non è dato sapere se ci sia un disegno appunto dietro questa mossa, però ovviamente ha creato curiosità e così le azioni hanno guadagnato il 4,10%. Bene, grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, grazie ad Eleonora Micheli, buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Le 17:49 minuti, un breve quadro finale di quel che è successo in borsa per quanto riguarda i singoli titoli, di alcuni vi abbiamo già detto, vi aggiungiamo, in calo CIR del 2,34%, Tenaris del 2,14%, del 2% Telecom Italia e Italcementi, della quale si era detto, l'automatica giù dell'1,75%, Exor di 1,5%, dell'1,40% A2A e Prismian, giù Mediobanca dell'1,28%, Unipol dell'1,25%, Generali dell'1,12%, di poco più di 1 punto percentuale Pirelli, ST Microelectronics e Mediolanum, UbiBanca dello 0,89%, Enel dello 0,75%, Atlantia dello 0,70%, Parmalat dello 0,67%, di poco più di 0,5 punto percentuale giù Fiat, Monte dei Paschi e Bulgari, Saipem dello 0,41%, Intesa San Paolo dello 0,40%, Snam Rete Gas dello 0,36%, così come il Banco Popolare dello 0,25%, Ansaldo Eterna, la Popolare di Milano appena sotto la parità e appena sopra Eni, Unicredit più 0,32%, di Finmeccanica si diceva un guadagno dello 0,40%. 1900 ed è proprio questo il prossimo argomento. Perché oggi è arrivato un annuncio importante alla 66esima Assemblea Generale Annuale della IATA, ossia un'alleanza di Finmeccanica con Boeing per l'elicottero presidenziale. Una storia che la ricorderete, era stata una commessa data dalla Marina statunitense, poi sotto l'amministrazione Bush, e poi era stata, insomma, aveva avuto qualche problema per un lievitare dei costi. Saluto Gianni Dragoni, collega del Sole 24 Ore, che si trova a Berlino, dove si sta svolgendo appunto l'assemblea della IATA. Gianni, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, che cosa vuol dire questo accordo? In cosa consiste? Questo accordo, occasionalmente avvenuto in occasione dell'assemblea IATA, anche se la sede, devo precisare, non è questa, in realtà le notizie sono arrivate dagli Stati Uniti e da Roma, e comunque anche qui ci sono gli uomini di Boeing. Finmeccanica torna in pista con un partner, un alleato molto forte, la Boeing, il primo gruppo aerospaziale del mondo, basato negli Stati Uniti, uno dei due grandi, per la prossima gara dell'elicottero del Presidente, perché Obama, pur avendo annullato la vecchia gara a causa dei costi, ha sempre bisogno di rinnovare la flotta degli elicotteri presidenziali. L'alleato di Finmeccanica nella precedente gara, Lockheed Martin, avendo dei rapporti non buoni, ha cambiato cavallo, sarà con Sikorsky, il precedente concorrente, e quindi Finmeccanica da sola con Augusta Weston non avrebbe avuto chance. Ora si può dire che riporta, almeno su una questione di parità, le possibilità, e che il suo elicottero, già fornito in 9 esemplari, quelli del primo contratto, alla Casa Bianca, o meglio alla Marina, 9 elicotteri che sono negli hangar, può avere delle chance di vincere anche la prossima gara. Quindi su un piano di parità, sostanzialmente, cioè il tentativo è di riportare la gara su un piano di parità, insomma. Quanto meno di parità. Poi saranno anche le lobby americane a decidere l'esito. L'altra volta addirittura aveva vinto, ma certamente ci sono stati degli errori. Il committente che ha chiesto aumento delle dotazioni di sicurezza, per cui da un appalto iniziale di 6 miliardi di dollari si era già arrivati a 11 miliardi, ma con la possibilità di arrivare a 13. Forse qualcuno da una parte o dall'altra doveva dire fermiamoci, e poi lo ha detto Obama. Bene, e quindi insomma vedremo come andrà a finire. I tempi quali sono, Gianni? Si ha già un'idea di quando la non prossima è gara chiara, perché per ora c'è la fase, diciamo, preliminare, che termina il 18 giugno, in cui ogni potenziale partecipante deve dire come e con chi partecipa. E quindi Boeing dirà: io partecipo con l'elicottero Augusta Weston 101, fabbricato prevalentemente in America, insieme comunque ad Augusta Weston Finmeccanica. Così ci sarà Sikorsky con Lockheed. Entro questione di mesi, al massimo nei primi mesi del 2011, dovrebbe partire la gara formale, quindi è possibile che nel corso dell'anno prossimo venga presa una decisione. Veniamo adesso, Gianni, al tema di cui poi si tratta in fondo la Berlino, appunto l'Assemblea Generale Annuale della IATA, che è l'associazione che raccoglie le compagnie aeree mondiali e che segnala un miglioramento per quanto riguarda il livello mondiale, nel senso che ci si aspetta per il 2010 un ritorno all'utile, ma non per l'Europa. L'Europa è la regione del mondo che soffre di più. Nonostante una previsione per tutte le compagnie che fanno parte della IATA, che valgono circa per il 90% del traffico mondiale, di avere un utile netto di 2,5 miliardi di dollari quest'anno, questo è il dato di stamattina più recente, in Europa viene prevista ancora una perdita totale di 2,8 miliardi di dollari. Perché? Perché è lo specchio della recessione, di una crescita comunque che, anche se sta riprendendo lentissimamente, invece in Asia e America Latina è più forte, quindi quelle sono le aree con i migliori profitti. Persino in Nord America, dove i giganti dinosauri americani sono ancora acciaccati, dovrebbe esprimere a livello totale un utile consistente quest'anno. Brevemente, Gianni, ce lo chiedono via SMS, il vulcano non c'entra niente, insomma, cioè sono cifre troppo elevate perché il vulcano islandese abbia molto a che farci. Giusta questa domanda acuta. La IATA inserisce ancora i danni dal vulcano in circa 1,8 miliardi di dollari totali, questo però come mancati ricavi, che non sono automaticamente perdite perché poi non sono stati fatti anche molti voli, quindi sono stati risparmiati dei costi. Quindi il vulcano in astratto c'entra, io, questa è una mia però impressione, credo che le compagnie aeree stiano sovrastimando i danni dal vulcano, perché una settimana senza volare con una perdita di un po' di prenotazioni le settimane successive, visto che il traffico anche è in crescita, non credo che si possa sempre pretendere, al di là dei danni effettivi sopportati per l'assistenza ai passeggeri come alberghi eccetera, che si debba ripagare tutto quello che è venuto meno, però diciamo un po' di danno sicuramente c'è stato. Grazie dunque anche per questa risposta, Gianni Dragoni, collega del Sole 24 Ore, collegato con noi da Berlino, dove sta svolgendo l'assemblea della IATA. Buonasera Gianni, la linea al giornale radio, ci ritroviamo subito dopo. Di nuovo buonasera, gentili ascoltatori, bentornati a Focus Economia da Simone Spezia. Il 349-238-6666 è il numero per i vostri SMS. Vi segnalo che in quella che abbiamo descritto come una strana giornata di borsa, l'ennesima, in questo momento la borsa americana è in positivo, il Dow Jones guadagna lo 0,20%, c'è da segnalare la chiusura della borsa greca giù del 5,5%, quindi un'altra giornata difficile per il mercato greco, mentre come si diceva in Italia la chiusura è stata negativa con il FTSE MIB in calo di 0,5%, il FTSE All Share dello 0,63%. Veniamo al primo argomento di questa seconda parte, parliamo di economia italiana, in particolare di un settore industriale. Ed è uno dei nostri settori industriali più importanti, quello del legno e dell'arredo. Si è riunito sabato scorso all'Assemblea Generale di Federlegno Arredo. Sono 73.600 imprese per 397.000 addetti, un settore naturalmente votato all'export e alla ricerca di nuovi mercati. Saluto Rosario Messina, presidente di Federlegno Arredo, che ci ha raggiunto in linea. Buonasera presidente. Buonasera a lei. Allora, avete illustrato dei dati che per il 2009 sono stati oggettivamente preoccupanti, insomma sono chiuse 1800 aziende, sono usciti naturalmente parecchi dipendenti, anche se forse non tanti quanto poteva far pensare la diminuzione del fatturato, insomma meno 18,2% a 32,4 miliardi. Iniziamo proprio da questo 2009, presidente, che è stato oggettivamente molto difficile, lo è stato per tutti, ma naturalmente per settori come i vostri hanno anche un impatto molto forte sul paese, naturalmente, quando vanno così male. Presidente, prego. Ma guardi, purtroppo appunto il problema drammatico è che noi eravamo e siamo un settore, direi, efficiente sulla parte del mondo che è crollata di più, cioè l'esportazione, per cui avere un meno quasi 20% nel 2009, quando negli ultimi 10 anni la crescita sul 4-5% anno, è stato un contraccolpo molto forte. Come diceva giustamente lei poco fa, la fortuna di avere una quantità di medie e piccole imprese ha risolto un problema di carattere sociale non indifferente, cioè da noi la cassa integrazione è stata utilizzata poco, perché ognuno di noi conosce i dipendenti uno per uno, piuttosto abbiamo preferito non fare gli utili e pagarle che non creare squilibrio sociale. Per cui, se vogliamo, questo è stato la soddisfazione che abbiamo avuto noi. Poi abbiamo continuato chiaramente a fare come facciamo sempre, a investire in ricerca, in innovazione, perché non ci siamo fermati un momento, perché questa perdita noi la dobbiamo recuperare nel più breve tempo possibile, perché in fondo nel settore dell'arredamento il Made in Italy nel mondo è posizionato al primo posto, anche se siamo secondi come quantità, ma come qualità di prodotto nel mondo siamo diciamo, i primi. La prima è la Cina per quantità, noi siamo sicuramente i primi per qualità, con 50 anni di storia in 150 paesi del mondo. Lei ha indicato, Presidente, nel giorno dell'Assemblea, per la ripresa, un anno che è il 2014, che è discretamente lontano. Però forse è stato preso molto velocemente. Allora io ho detto, noi ci speriamo di cominciare a riprendere a partire, spero, dal secondo semestre di quest'anno, ma dicevo che nel 2014, se recuperiamo, avendo perso quasi un 20%, per recuperarlo al 5% l'anno ci vogliono 4 anni, cioè 2014 vuol dire quando noi recupereremo quello che abbiamo perso in un anno soltanto. Ok, tornare al fatturato pre-crisi, sostanzialmente. Tornare al 2008, diremo, perché poi in effetti la crisi è iniziata a fine 2008, non si è subita parecchio perché gli ordini ce l'avevamo in casa, cioè, perché evidentemente ogni volta quando si parla stiamo migliorando dell'uno o del due, ma io non mi accontento, io voglio che si torni a quel 100 e non all'82 dal quale stiamo partendo, ed è questo il problema. Entro il 2014, io mi auguro molto prima, torneremo a quel 100 del 2008, che è un risultato importante, perché non le nascondo che la situazione poi non è neanche così florida neanche oggi, perché nel mercato interno abbiamo un stagnamento e una stagnazione dei consumi, anche perché le situazioni del mondo che si sono venute a creare creano un'ansia e una preoccupazione tale nella famiglia che, pur essendo noi insieme ai giapponesi i primi risparmiatori del mondo, uno prima di andare a spendere, siccome dietro l'angolo c'è incertezza, in questo momento preferisce tenere i soldi in banca. Allora, ci fermiamo un attimo, c'è la viabilità, poi vorrei tornare a parlare con lei per affrontare anche il tema che abbiamo toccato all'inizio, ed è questa svalutazione dell'euro, quanto e come ci può aiutare, e come può aiutare il paese, in particolare appunto un settore votato all'export come il vostro, e poi parlare dei prossimi mercati a partire dalla Cina. Sentivamo in un'intervista la settimana scorsa, c'era arrivata da Sebastiano Barisoni, inviato a Shanghai, che ormai il 30% delle camere da letto cinesi è italiano, è di produzione italiana, quindi ormai è quasi un mercato affermato e nemmeno un mercato emergente. Insomma, parliamo di questi due temi appunto subito dopo le informazioni dalle strade. Ne abbiamo parlato prima, c'è chi sostiene tra gli economisti internazionali che l'unica via per uscirne per l'Europa dalle difficoltà nelle quali si dibatte, per ritornare ad una crescita economica accettabile, non bassa, insomma, come si prospetta in questo periodo, l'unica soluzione è in sostanza questa svalutazione dell'euro, che nei fatti sta arrivando. C'è chi sostiene tra gli economisti, tra gli osservatori, che si raggiungerà la parità, se non ancora meno, entro un anno. Immagino, Presidente Messina, che voi valutiate con un certo sollievo questo andamento della moneta unica. Sì, direi che con sollievo e con interesse, però non bisogna sottovalutare che non credo che sia proprio l'unico elemento che avrà un'inversione di tendenza, perché ormai noi siamo un mese e passa che siamo passati da 1,50 a 1,60 al cambio 1,20-1,25, però noi parliamo che ordini dagli Stati Uniti, che era un paese di grande importazione dei nostri prodotti, non ne arrivano più di tanto, perché qui bisogna valutare che i paesi comunque si sono impoveriti tutti, per cui è un elemento ma non sarà quello determinante. Io credo che sono un insieme di fattori. Allora, da un lato potrebbe aiutare, non più di tanto. Noi dobbiamo continuare a persistere a esportare in Europa, perché è il 50% delle nostre esportazioni nel mondo, per cui consolidare e mantenere le cose acquisite. Poi ci sono i mercati emergenti, che non si direi non solo la Cina, perché è vero che c'è quella parte di gente che dorme su prodotti europei, però parliamo di una nicchia di mercato molto ristretta su 1.300.000, 1.400.000 di persone, dove il prodotto arredamento di un certo livello abbastanza nuovo, per cui da un'altra parte ci sono i compratori, quello che manca in questo momento sono gli showroom in quantità notevole che presentano i nostri prodotti. Presidente, ma sul grosso dei cinesi, per quanto insomma si parli di naturalmente di cifre spaventose, si può competere? Perché insomma l'idea che viene da dire è che sarà ben difficile, insomma, probabilmente bisognerà rimanere sempre su quel target medio-alto. No, ma guardi che noi sul target medio-alto diciamo che se anche fosse un terzo, parliamo sempre di 400 milioni di persone. E anche lei ha ragione. No, il problema è obiettivamente che nel prodotto di valore aggiunto di design, io ho detto l'altro giorno in un'altra trasmissione, il nostro, proprio il governo, il paese deve capire concretamente che quando il settore del mobile urla perché ha bisogno di avere una mano in qualche modo, lo fa soltanto non per avere incentivi alle imprese, semmai ai consumi, ma per un fatto molto importante: il design per l'Italia è un patrimonio del paese, non è un patrimonio delle aziende. È come dire che gli arabi difendono il petrolio. Non possiamo pensare che questa grande genialità costruttiva, che è un segreto di manualità, non sono le macchine, fossero state le macchine ci avrebbero già copiato perfettamente come noi, è la genialità degli imprenditori, sì, ma più che altro della manodopera, è una cultura che va avanti ormai da 60-70 anni e il mondo, forse noi ci crediamo meno, ma il mondo di più, il mondo è innamorato dei prodotti italiani, non c'è niente da fare, chi vuole qualcosa di bello e veramente straordinario lo vuole italiano, questo succede nel mobile come succede anche nell'abbigliamento, nell'alimentazione, in altri settori, ma nel mobile in modo particolare. Cui la soluzione avverrà da un aumento di importazione dalla Cina, c'è un interesse di crescita notevole nel bacino del Mediterraneo, noi abbiamo molto più vicino a noi la Tunisia, la Libia, l'Egitto, l'Arabia, che sono i quattro paesi che stanno crescendo insieme alla Cina, cui non dimentichiamo che poi quando si riuscirà a fare un patto fra governi, c'è anche quel famoso Brasile dove tutti parlano di export, ma obiettivamente il BRIC va bene in Russia che si sta leggermente riprendendo, va bene in India, ma quando parliamo di Brasile si sono protetti con un dazio doganale dell'80%, per cui il consumo di mobili in Brasile interno, secondo le informazioni che mi ha dato anche il mio collega, è cresciuto del 15% anno, noi non abbiamo beneficiato di niente perché c'è un dazio protettivo che è estremamente forte, per cui ormai la competizione non è più fra aziende, è fra governi, fra paesi, addirittura fra continenti, l'Europa con l'Asia, con l'Africa, con l'America, però onestamente questi accordi di bilateralità devono essere risolti dal governo, perché noi singole imprese o federazione non siamo in grado di ribaltare questo problema. Grazie dunque al presidente di Federlegno Arredo, Rosario Messina, per essere stato con noi, buonasera. Grazie a lei e ai suoi radioascoltatori. Grazie, grazie anche per averci dato queste indicazioni sulle richieste del settore. Siamo quasi in chiusura, parliamo di un altro settore industriale. Brevemente, è quello della chimica, 1300 imprese, circa 100.000 addetti, valore della produzione da 58 miliardi, anche qua si è riunita oggi l'assemblea annuale di Federchimica, ne parleremo più approfonditamente domani in Focus Economia. Quello che vi possiamo dire nel frattempo è che in Italia nel 2010 è previsto un incremento medio del 6-7% sul fronte del fatturato, che lascerebbe i livelli del settore di oltre il 10% inferiori a quelli precedenti la crisi. Questi i dati che sono emersi, attività chimica in ripresa da alcuni trimestri in tutto il mondo con una crescita a macchia di leopardo rallentata dalle turbolenze finanziarie. All'assemblea di Federchimica oggi nella sede di Asso Lombarda c'era la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, al microfono del nostro Stefano Totoro, ha parlato, l'abbiamo sentita poco fa all'inizio della trasmissione, parlare di quel che dovrebbe fare l'Europa. Sentiamola invece sul tema dei tagli e della manovra. Noi dobbiamo fare rigore finanziario, non c'è dubbio. Noi abbiamo detto che questa manovra finanziaria per quanto riguarda la parte dei conti pubblici va bene, noi dobbiamo ritornare a un livello di deficit PIL sotto il 3%, lo dobbiamo fare nei prossimi due anni, con il debito pubblico che abbiamo e con il tasso di crescita basso che abbiamo, per noi è un must, non si può discutere su questo, cioè chi protesta e chi dice no, non si possono fare questi tagli, non è possibile, tocchiamo aree come dire, che non vanno toccate, dice una cosa che è contro il paese. Per noi l'equilibrio finanziario è essenziale, è vitale, se noi non torniamo ad avere un deficit molto basso, ripeto, con il debito che abbiamo noi non stiamo in piedi, quindi questo non è in discussione, anzi il nostro invito al governo è di resistere seriamente a tutti quelli che cercheranno in qualche modo di ridurre la portata della manovra, cercheranno di ridurre i tagli di costi che sono stati fatti nei vari comparti. Dal nostro punto di vista i tagli vanno fatti ancora di più, perché il tema del rigore finanziario è un tema essenziale. E questo era in realtà l'intervento dal palco di Emma Marcegaglia. A margine invece, appunto, al microfono di Stefano Totoro, a margine dell'assemblea di Federchimica, sul tema della proposta di rivedere l'articolo 41 della Costituzione per dare più libertà d'impresa. Sentiamo. Il rigore dei conti pubblici, ho detto, è fondamentale, è vitale per l'Italia. Adesso il tema vero è però anche rimettere al centro la crescita, la capacità di crescere, perché senza crescita non riusciamo a creare nuovi posti di lavoro, non riusciamo a sostenere, a far sopravvivere tutte le nostre imprese. E allora ci sono alcune riforme importanti da fare. L'idea dell'articolo 41 della Costituzione va molto bene, cioè di tagliare tutta la burocrazia. Però, siccome questo richiederà tempo, nel frattempo noi chiediamo però che si facciano anche altre cose, si faccia diventare la legge sulla conferenza dei servizi immediatamente operativa, si facciano, si taglino, come dire, si liberalizzino i mercati delle professioni piuttosto che di alcuni settori che ancora non sono liberi. E si tagli comunque la burocrazia per quello che si può fare già ora. Poi va bene, l'articolo 41 però richiederà tempo, noi abbiamo bisogno anche di alcune risposte subito. Si chiude così questa puntata di Focus Economia. Prima di salutarvi, una notizia che è stata diffusa poco fa dalle agenzie e che continua a dare un'idea delle tensioni che circolano sui mercati. Il premio di rendimento pagato ai titoli di Stato decennali italiani rispetto ai Bund tedeschi è volato oggi fino a 180 punti base, un livello mai toccato da quando esiste l'euro. Chiudiamo così dunque, un ringraziamento a Barbara Bianchi in redazione, Valeria Bernardi in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.